Bene, no, io sarò molto didascalico e vi consiglio assolutamente di leggere, anzi di studiare, non le dispense che magari vi distribuiranno mie, ma un testo di un economista italiano che vi darà i fondamenti logici e metodologici per, quindi la strumentazione per fare qualsiasi discorso sulla crisi, per capire tutto ciò che si dice riguardo alla crisi. Chi è questo economista? Si chiama Ferdinando Di Fenizio e ha scritto un manuale di economia politica che si chiama Economia e Politica nel 1949. Darò io le fotocopie, la scannerizzazione a... Non puoi sovraccaricarle, lui. No, e vi consiglio assolutamente di leggerlo. Se voi studiate queste 80 pagine, avete fatto raggiungete un obiettivo importantissimo. Chi è Di Fenizio? Di Fenizio è stato il primo economista italiano di matrice keynesiana, ma non solo. Quel testo è il primo testo keynesiano uscito al mondo, cioè il primo manuale di economia politica keynesiana uscito in tutto il mondo. Ferdinando Di Fenizio ovviamente prima apparteneva, diciamo così, alla scuola di Chicago, anche se la scuola di Chicago ancora non esisteva, e posto di fronte a dei problemi molto reali, che erano quelli della crisi del dopoguerra, ha studiato, si è convertito. Di Fenizio era un liberale, non era né marxista né di sinistra, era un liberale e ha fatto questa conversione che ovviamente poi ha suscitato in Italia un amplissimo dibattito, fortissime critiche. Quindi queste 80 pagine sull'economia keynesiana ve le consiglio assolutamente, cioè dovete leggerle e di più studiarle. Perché? Perché vi danno i concetti fondamentali che anche Terenzio ha utilizzato. Come mai la diseguaglianza è all'origine della crisi? Questo è il punto, perché certamente siamo di fronte a un fenomeno, quello della diseguaglianza, poi però bisogna trovare la concatenazione di causa-effetto che dalla diseguaglianza porta alla crisi. Ecco, nel testo che leggerete di De Fenizio, il metodo è semplice, ed è il metodo keynesiano ed è anche il metodo marxiano, diciamo, che non è invece il metodo del mainstream di solito. È un metodo che consiglia di svolgere dei ragionamenti di causa-effetto, cioè tutti i ragionamenti di carattere economico sono ragionamenti sequenziali. Sequenziali, cioè io do un calcio alla palla e sotto determinate condizioni, non c'è vento, non piove, la palla fa 50 metri. Causa-effetto. Qual è l'accortezza che bisogna tenere? È quella di capire bene la causa-effetto e capire bene che questa causa dà questo effetto solo se esistono alcune condizioni, mentre se queste condizioni mutano, la stessa causa non dà quell'effetto, ma ne dà un altro. Questo è il segreto della logica, diciamo, keynesiana e marxiana, e vi assicuro che non è assolutamente banale, perché moltissimi economisti di stampo neoclassico non usano questo tipo di ragionamento, tanto è vero che la maggior parte degli studenti che esce da economia questo tipo di ragionamento fatica a comprenderlo. Voi siete favoriti perché siete in una facoltà umanistica storica e il ragionamento è banale. Causa-effetto. Se piove, riesco a dare alla palla una determinata curva, se non piove, no. Bene, allora per capire qual è il legame che esiste tra diseguaglianza e crisi, dobbiamo acquisire una serie di concetti. Quindi oggi io vi propongo una serie di concetti assolutamente elementari, diciamo così, dal punto di vista economico. Non vi dico nulla di nuovo, faccio una piccola lezione sulle categorie logiche di Keynes. Perché faccio questa lezione? Che non è banale, badate, non è banale, perché tutti questi economisti, come per esempio Stiglitz, premio Nobel per l'economia, vi consiglio assolutamente di leggere questo testo, Bancarotta, e tutti gli altri economisti che si stanno occupando in modo serio, anche questa persona, anche altri, ce ne sono tanti, dicono che sostanzialmente bisogna, è necessario ritornare sui manuali di economia degli anni 40-60, quindi sul Di Fenizio. Se si vuole capire qualcosa, bisogna tornare su quei testi. Di che cosa si occupano quei testi? Si occupano di un problema fondamentale, e veniamo sempre alla relazione tra diseguaglianza e crisi. Primo problema fondamentale: dove nasce la crisi? Quali sono i paesi da cui scaturisce la crisi? I paesi poveri o i paesi ricchi? Banale sarebbe dire dai paesi poveri. No, queste erano le crisi pre-capitalistiche. La crisi capitalistica si sviluppa nei paesi ricchi. Dunque esiste un paradosso. Machiavelli ve l'ha mostrato all'inizio. Vi ha mostrato come prima della crisi del 29 e prima della crisi del 2001, ma anche di questa crisi, negli Stati Uniti d'America si era in un periodo di cosiddetto boom economico. Aumentava la produttività del lavoro, aumentava il benessere. Un paese ricco, proprio in un paese ricco, nasce la miseria, nasce la disoccupazione, si scatena la crisi. Gli economisti sono tenuti a... gli economisti o chiunque si voglia occupare di come funziona una società capitalistica moderna, di risolvere un paradosso: la miseria nell'abbondanza. Oggi viviamo il paradosso che siamo miseri nell'abbondanza. Mancano le patate? Manca il petrolio? Manca l'energia? Manca il grano? Non è vero. Non è assolutamente vero. Tutto ciò esiste. La produttività del lavoro si è talmente sviluppata che noi potenzialmente abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Che cosa ci manca? Il potere d'acquisto. Quindi, secondo concetto fondamentale, primo concetto fondamentale, la crisi si sviluppa nel paese più ricco. Secondo concetto fondamentale, esiste un problema non di domanda in assoluto, ma di domanda pagante, di domanda effettiva. Che differenza c'è tra domanda e domanda pagante? Perché si parla di domanda effettiva? È chiaro, se io sto morendo di fame, ho bisogno, domando cibo. È chiaro? Sto morendo di fame. Domanda pagante è quando io ho fame e mi posso permettere di acquistare il cibo. La crisi nell'abbondanza non vuol dire che noi non abbiamo bisogno di ciò che ci serve, non vuol dire che noi non abbiamo bisogno, non vuol dire che noi non abbiamo fame, no, vuol dire che noi non abbiamo i soldi per pagare i nostri bisogni. Sono due concetti completamente diversi. Io ho sete, ma non ho i soldi per pagare la mia sete. Bene, allora bisogna studiare, Keynes che cosa ci dice? Che bisogna studiare le leggi della domanda effettiva. Punto, semplice. Tutti gli economisti che per tanto tempo hanno pensato che i problemi dell'economia, tutti i problemi dell'economia si possono affrontare e risolvere guardando i problemi dell'offerta, cioè della produttività del lavoro, del mercato del lavoro, d'accordo? Quelli sono i problemi dell'offerta, come organizzi l'impresa, lo sviluppo tecnologico, il potere dei sindacati, la flessibilità dei salari, tutti i problemi che riguardano l'offerta dei prodotti. Balle, no, fine, stop. Se nel prima del 29 i problemi dell'offerta erano risolti, prima del 29 si è inventata la catena di montaggio, prima di questa crisi si è inventato il computer, non ci sono problemi dell'offerta, non ci sono problemi di carattere organizzativo. Merchione lì che guarda anche quando devo andare lì per avvitare il bullone, ah, attenzione, non ci sono problemi dell'offerta. Sistema tayloristico sviluppato, qual è il problema? Che le macchine non se le compra nessuno, quindi il problema è la domanda. Bene, quindi bisogna studiare le leggi della domanda, e Keynes ci dà uno strumento semplicissimo per capire le leggi della domanda. E vi invito a utilizzare sempre questo schema. La domanda ha due componenti fondamentali: i consumi e gli investimenti. Esistono due leggi completamente diverse, totalmente diverse, che governano i consumi e gli investimenti. Quindi vuol dire che, per spiegare come mai esiste in un paese ricco la miseria, devo andare a vedere non quello che succede nell'offerta, contratto di lavoro in Pomigliano non mi interessa, ma che cosa accade ai consumi e agli investimenti, e devo andare a vedere se esistono delle leggi di carattere generale, universali, empiriche, quelle che sono, che ci spiegano come funzionano i consumi e come funzionano gli investimenti. D'accordo? Occupiamoci subito dei consumi, così veniamo a un concetto che c'ha, con il quale ha terminato la lezione Maccabelli. I consumi. Esistono delle leggi dei consumi? Secondo Keynes queste leggi sono semplicissime e sono fondamentali. La prima legge è che esistono dei cosiddetti consumi autonomi. Autonomi da cosa? Autonomi dal reddito. Che cosa vuol dire? Che facciamo l'ipotesi che se io ho reddito zero perché sono disoccupato, io per vivere devo consumare. Sono consumi autonomi dal livello del reddito. Se non ho reddito, poiché non muoio, mi indebito. Che cosa vuol dire questo indebitamento? Non è il debito di cui parlava Maccabelli. Vuol dire che c'è qualcuno o che mi presta dei soldi per comprare, oppure che mi fa della beneficenza che può essere pubblica o privata. Quella privata può essere della tua famiglia o della parrocchia o di emergency. D'accordo? Semplice. Esistono dei consumi autonomi dal livello del reddito. Concetto banale. Naturalmente il livello, si tratta di studiare se esiste qualcosa che mi definisce, mi determina il livello del mio consumo autonomo. Vi faccio un esempio banale. Il livello autonomo dei consumi, cioè dei consumi indipendenti dal reddito, di un immigrato immigrato che viene dal Kenya, è lo stesso dei consumi autonomi che abbiamo noi? No. Assolutamente no. E quindi questo ci spingerebbe a fare cosa che io non faccio adesso, però vi segnalo un problema. Ci sono dei consumi autonomi dal reddito, ma che dipendono comunque da altri fattori, in cui probabilmente c'entra anche il benessere generale della società. Vi pongo solo il problema, che ve lo individuo, che è fondamentale. Secondo, vi sono dei consumi che invece dipendono dal livello del reddito. E qui veniamo al punto fondamentale per capire Keynes e per capire il nesso logico che c'è tra diseguaglianza e crisi economica. Questo è il punto fondamentale. Spiegarlo è semplice. Ciascuno di noi ha una certa propensione al consumo. Che cosa vuol dire questa propensione al consumo? Tecnicamente si chiama propensione marginale al consumo, non ha importanza. Ve lo dico in modo tale che se vi dovrete confrontare con questo argomento sapete di che cosa stiamo parlando. Che cos'è la propensione al consumo? Vuol dire che se io ho un euro di reddito, una parte di questo reddito lo dedico ai consumi e un'altra parte no. A questo punto ci si apre un mondo. E il mondo qual è? È quello del risparmio. Io ho il reddito, una parte la consumo e quella che non la consumo la chiamo risparmio. Il risparmio è ciò che io non consumo, banale. Bene, esiste una legge, a vostro giudizio, che regola la propensione al consumo di ciascuno di noi? Keynes scopre che esiste una legge molto importante. Qual è questa legge? Keynes ci dice che la propensione al consumo è diversa e dipende dal livello del reddito. Domanda. Ci poniamo questa domanda, rispondiamo a questa domanda e capiamo il pensiero di Keynes. Consuma una percentuale maggiore del proprio reddito un povero o un ricco? Un povero. Bene. Complimenti, perché non è scontato. Non è scontato. Attenzione, quindi siamo di fronte a due concetti diversi. Ma allora, consumano di più i poveri che i ricchi? No. Il livello assoluto dei consumi è maggiore per il ricco. è la percentuale del proprio reddito che cambia. Quindi il ricco continua a comprarsi 14 ville, Berlusconi addirittura ne ha 600, 700, sparse nell'universo mondo, d'accordo? Continua, ma attenzione, macchine, insomma, i consumi di Berlusconi li conosciamo, i consumi di Berlusconi li conosciamo direi alla perfezione, no? E sono consumi importanti, grandi, grande quantità di consumo, grande sfarzo, ma attenzione, grande quantità di reddito risparmiato. Andiamo al povero. Ammesso e non concesso che abbia un reddito, la maggior parte del suo reddito la dedica ai consumi. D'accordo? Questa è una legge fondamentale. Legge, arriviamo a un'implicazione ancora diversa, ancora più importante. Badate bene che se io dico, che se Keynes dice, perché io non dico nulla, che i consumi dipendono da, la propensione al consumo dipende dal reddito, è l'unico maledetto fattore da cui dipende la propensione al consumo. La propensione al consumo dipende dal reddito. Potremmo dire che la propensione al risparmio dipende solo ed esclusivamente dal reddito. Punto. Che cosa dice il mainstream? La scuola di Chicago e compagnia bella, che il livello del risparmio dipende da una cosa che si chiama tasso dell'interesse. No, sbagliato, bocciato, ritorni la prossima volta. Secondo Keynes, l'unico, che esiste una relazione tra tasso di interesse e consumi e quindi risparmio, ma è addirittura opposta a quella che pensa il mainstream. Non complico, non ve lo dico perché sennò ci confondiamo le. Questo è fondamentale. Tasso dell'interesse, che per adesso per voi è oscuro, non c'entra nulla, d'accordo? Dunque, se questo è chiaro, lo troverete sul testo di De Finizio, detto in maniera chiarissima, così tanto chiara che non lo trovate in nessun altro testo di economia, lo giuro. È chiaro? Dovete andare a studiarvi quel testo. Qual è l'implicazione? Qua abbiamo descritto un fenomeno, no? Adesso vediamo l'implicazione di politica economica, no? Descrivo com'è la realtà, vado a vedere che cosa posso fare dal punto di vista della politica, politica economica, provvedimenti di governo, sull'economia per raggiungere un determinato obiettivo. Vi chiedo, se il problema per cui esiste un eccesso di risparmio, come diceva Machiavelli sulla scorta di varie persone, che il problema è un eccesso di risparmio, che non sappiamo dove andare. Come faccio a far produrre di più le aziende e quindi a creare occupazione? A chi devo redistribuire la ricchezza? A chi ha una propensione al consumo maggiore o minore? Se devo aumentare i consumi, chi ha una propensione maggiore? Ai poveri. Chiamiamoli poveri per intenderci. D'accordo? È in dubbio. Non c'è proprio dubbio. Quindi, se io ho disoccupazione, qua veniamo direttamente al problema che ha sollevato Machiavelli. La diseguaglianza dirotta verso una fetta della popolazione che si consuma tanto, ma che al tempo stesso accumula una grande quantità di risparmio. D'accordo? Machiavelli vi ha detto un'altra cosa. Questo risparmio non trova accessi, sbocchi produttivi. Non ce ne stiamo occupando perché ne parleremo quando affrontiamo gli investimenti. Ci semplifichiamo la vita, no? Diciamo in termini generali, se io voglio produrre più macchine, e se produco più macchine a parità di tecnologia, e quindi per produrre 10 macchine in più, ho bisogno di 10 lavoratori in più, e quindi se io il mio obiettivo è produrre più macchine perché devo combattere la disoccupazione, e quindi 10 macchine in più uguale 10 lavoratori in più, diminuisce la disoccupazione, a chi devo dare potere d'acquisto? a chi ha la propensione al consumo maggiore, e cioè a quelli che spendono di più. Devo stimolare i consumi. L'unico modo per stimolare i consumi è redistribuire la ricchezza a chi è meno ricco. Questa è la ricetta keynesiana. Classica. L'esempio che vi ha fatto Maccabelli, e ciò che complica drammaticamente i problemi, è il caso americano, dove abbiamo che l'incentivo al consumo non è stato dato attraverso una redistribuzione del reddito, ma attraverso forme di incentivando l'indebitamento. D'accordo? Stiamo parlando però, io adesso non vi stavo parlando della crisi adesso, vi stavo proponendo i concetti chiave dell'economia keynesiana, cioè quei concetti che sono stati alla base di tutto quel dei paesi scandinavi e di tutto quel periodo d'oro in cui le crisi non ci sono state o le abbiamo combattute bene. E anche adesso, ragazzi, guardate che la crisi la stiamo combattendo bene, perché nonostante tutti sputino addosso, a cominciare da chi prefae questo libro, cioè Franco De Benedetti, sulla nostra Costituzione e per esempio sullo Stato sociale italiano, ricordatevi che c'è la cassa integrazione. Senza la cassa integrazione i consumi di questi disoccupati andrebbero da 1.100 euro al mese a zero, quindi la crisi si avviterebbe. Viviamo ancora in un mondo keynesiano, per fortuna. Bene, questa è la legge fondamentale dei consumi. Ora passiamo alla legge fondamentale degli investimenti. Quindi, la logica è molto semplice. Domanda effettiva. Da che cosa è governata la domanda? Dai consumi e dagli investimenti. Quali sono le leggi dei consumi? Ve le ho dette. Sono leggi fondamentali, bisogna capirle molto bene. Sono molto semplici, ma hanno costituito la rivoluzione keynesiana. Ancora oggi ci sono economisti che non ci credono. Prego. Io scusa, sbaglio, questo tema è esattamente al centro della campagna presidenziale statunitense? No, sono tutte balle. Diciamo, la campagna, non quella che dice lei. Purtroppo, leggetevi Bancarotta, leggetevi Ryan, leggetevi tutti i testi americani che escono, vedrete che purtroppo... come anche la nostra realtà politica di oggi, purtroppo in modo bipartisan siamo ancora nel mainstream, diciamo così, monetarista. Purtroppo è così. Ci sono dei motivi chiari, entrambi questi testi vi dicono che il motivo per cui negli Stati Uniti, e potremmo aggiungere in Italia, potremmo aggiungere in altri paesi, non si esce da questa strettoia, è che c'è un legame molto stretto tra, diciamo così, chi riesce a guadagnarci da questa crisi e il governo. Punto. Nel caso americano, proprio ormai, se voi leggete Stiglitz, Rajan, se leggete chiunque, diventa addirittura... C'è un documentario molto interessante che si chiama Inside Job, mi sembra, sì. L'avete visto, e mostra la continuità tra l'entourage, i consulenti economici dei presidenti, che praticamente non sono mutati. Purtroppo sono chiacchiere. Ma Obama stesso non viene... Ma no, diciamo, Obama viene da una tradizione, ma insomma sono Obama, chiacchiere. A parte che anche dire avviene a Chicago non vuol dire nulla. Obama magari può avere anche idee, tra virgolette, welfaristiche, ma poi andiamo a vedere i punti chiave. Vediamo purtroppo. Guardate, leggetevi Bancarotta, Stiglitz, cioè che non è un marxista, comunista, un sovietico, è un liberal. Leggetevi i testi, che tutte le pagine che dedica al sistema istituzionale americano, è una critica impietosa. Naturalmente è imperniato sul bipolarismo e il maggioritario. In un altro testo di un famoso americano, che adesso non mi ricordo, di Washington, si mostra come esiste un legame preciso tra sistema maggioritario, diseguaglianza e politiche economiche procicliche, e invece il fatto che nei paesi dove ancora vige il sistema proporzionale le cose vanno molto meglio. Ma comunque, insomma, lasciamo la lesina, gli americani, cioè non è che lo dicono i bolscevichi, cioè lo dicono. Purtroppo in Italia viviamo questo paradosso che sembra di parlare. Vabbè. Gli investimenti vi dico due cose semplici. Da che cosa dipende il volume degli investimenti? Sono due fattori che regolano il volume degli investimenti, cioè che cosa sono gli investimenti? I macchinari in più, i beni intermedi in più che io compro per produrre. Una macchina agricola in più, un'automobile in più, una motosega in più, una macchina tessile in più. Quali sono i fattori che li governano? Sono due: il saggio del profitto, cioè quanto io prevedo di guadagnare dall'investimento che faccio, e il costo del denaro che io prendo a prestito per fare questo investimento. Perché? Perché Keynes, per i keynesiani, ha scontato che l'imprenditore non ha del capitale proprio, lo chiede in prestito. È un costo. Il costo del denaro si chiama tasso dell'interesse. È quanto la banca mi fa pagare il mutuo che vado a fare per produrre. Va bene? Saggio del profitto. A proposito del costo del denaro, puoi spiegare... Ci arriviamo dopo, okay. Perché è la terza cosa fondamentale che vi devo dire. E poi non ho più tempo e ci salutiamo. Saggio del profitto, tasso dell'interesse. Dato il tasso dell'interesse al 10%, io mi indebito di più o meno, quindi prendo una quantità maggiore o minore di capitale in prestito a seconda del profitto che io mi aspetto. Classico metodo di ragionamento keynesiano. Data una condizione, vi ricordate l'ambiente, dato il tasso dell'interesse, a seconda del profitto che io prevedo di guadagnare, regolo il volume degli investimenti. Causa, effetto, dato determinate condizioni. Questo è il modo di ragionare. Qualsiasi altro modo di ragionare direbbero, no, non lo dico, i soliti idioti direbbero solo questo è il modo di ragionare che può portare da qualche parte. Che cosa accade? Qual è la legge fondamentale, secondo Keynes, che accade? E che lo avvicina, a questo punto, lo avvicina seccamente al pensiero di Marx. Qui Keynes incontra Marx. Keynes e Marx non si incontrano mai. Marx è morto quando nasce Keynes. Marx ha criticato tutti gli economisti pre-keynesiani. Keynes ha letto Marx, ma ha capito poco, una cosa gli è piaciuta e lo ha sempre criticato. Si odiano, sono due mondi diversi, eppure si incontrano su un punto fondamentale. Cioè che esiste una legge, prima legge, nei paesi ricchi, i paesi ricchi si definiscono ricchi perché esiste una grande quantità di investimenti fatti. Che cosa differenzia l'Italia da un paese del terzo mondo? La quantità di ferrovie, la quantità di scuole, la quantità di ospedali. Che cosa sono questi investimenti? Perché noi siamo ricchi? Perché la nostra rete ferroviaria è lunga tot. In Uganda è lunga tot meno un'infinità. Ci sono gli ospedali, ci sono le scuole pubbliche, ci sono le ba... Chiaro? Seconda legge, all'aumentare degli investimenti, le prospettive di profitto, data la tecnologia, badate bene, data la tecnologia, cioè se noi presupponiamo che la tecnologia non muti, le attese di profitto calano. Keynes e Marx la pensano allo stesso modo. La cosa è molto complicata da studiare perché vi rendete conto che esiste il problema del progresso tecnologico. Si studia questo argomento facendo finta che il progresso tecnologico adesso è dato. D'altronde è la situazione che vivono tutte le crisi, perché prima della crisi c'è stato progresso tecnologico. Arrivi ad un certo punto in cui è dato il progresso tecnologico e accade tutto il resto, cioè non è difficile. Bene. Il saggio di profitto tende a diminuire. E arriviamo ancora una volta alle parole che Baccabelli ha citato alla fine del suo testo. Una grande massa di risparmio, e dove c'è una grande massa di risparmio? In un paese ricco o in un paese povero? In un paese ricco. Una grande massa di risparmio. E una grande massa di risparmio si dà solo dove esiste un grande livello del reddito, quindi dove siamo molto ricchi. Una grande massa di risparmio in un paese ricco, dove quindi esistono già una quantità notevolissima di investimenti, non trova più investimenti produttivi. Cioè le attese di profitto che abbiamo sono sempre più labili, sempre calanti, tendono a strozzarsi. E veniamo alla terza parte. Quanti minuti mi date? 15. Veniamo alla terza parte, che è la parte più complicata del sistema keynesiano. Andate sempre a quelle pagine e ve le spiega con grande semplicità. Io ve le spiego adesso, come le ho capite io, ed è da manuale, solo di Fenizio. Insisto su questo concetto, Non li trovate da nessun'altra parte. Abbiamo studiato i consumi, abbiamo studiato gli investimenti e abbiamo studiato un solo fattore che regola gli investimenti, il saggio del profitto, e abbiamo considerato la tecnologia data, e quindi vuol dire che abbiamo individuato un secondo fattore che governa gli investimenti, che è la tecnologia. Quindi gli investimenti dipendono dalle attese di profitto e dalla tecnologia, e io devo andare a studiare questi due fattori. Terzo fattore da cui dipendono gli investimenti: il tasso dell'interesse. Per completare l'analisi del sistema keynesiano andiamo nella sua parte più complicata, che è la parte in assoluto più complicata dell'economia. Che cos'è il tasso dell'interesse? A questo punto Keynes ribalta completamente quello che hanno pensato per tantissimo tempo gli economisti. Da un lato il tasso dell'interesse governa il volume degli investimenti dato la tecnologia e dato le attese di profitto. Quindi vuol dire che, dato l'attesa di profitto, data la tecnologia, se il tasso dell'interesse aumenta, il volume degli investimenti aumenta o diminuisce? Diminuisce. Ottimo. Chiaro? Aumenta uno dei costi, io faccio meno investimenti. Mi indebito, mi costa di più indebitare, date le attese di profitto, data la tecnologia, faccio meno investimenti. Bene. Adesso vado a vedere, ma da che dipende questo tasso dell'interesse? Che cos'è il tasso di interesse? Panico. Qua iniziano veramente i problemi. Tasso dell'interesse. Allora, il tasso dell'interesse, punto primo, per Keynes non è la remunerazione del risparmio. Ve l'ho detto prima. Da che cosa dipende il risparmio? Il risparmio dipende dal livello del reddito. Bye bye. Punto. Che cos'è il tasso dell'interesse? Il tasso dell'interesse è un fenomeno di natura monetaria. Tasso dell'interesse è un fenomeno di natura monetaria. E a questo punto iniziano i guai, perché dobbiamo definire che cos'è la moneta. Se non si capisce che cos'è la moneta, che è uno degli argomenti più complicati che esiste in economia, che cos'è la moneta? Non riusciamo a capire, non riusciamo a fare un'indagine a fondo su uno dei fattori fondamentali che governa che cosa? Gli investimenti. E se governano gli investimenti, che cosa governa? La domanda effettiva. Concatenazione di natura causa-effetto. Da che cosa ciò che mi muove il tasso dell'interesse mi muove il volume degli investimenti, ciò che muove il volume degli investimenti mi muove la domanda effettiva, ciò che muove la domanda effettiva mi muove quante merci produco, ciò che mi muove quanto merci produca mi governa l'occupazione. Causa-effetto, d'accordo? Fenomeno monetario. Allora, punto primo, bisogna definire la moneta. Che cos'è la moneta? La moneta non si definisce in base a quando voi aprite il portafoglio e guardate che cos'è, ma la moneta si definisce in base alla sua funzione. Quanti minuti ho? 12. Tutto ciò che svolge una determinata funzione, noi la chiamiamo moneta. Mi sono spiegato? Vogliamo abolire la moneta cartacea, la carta moneta, e vogliamo fare tutte le transazioni segnate sulla carta di credito. Attenzione, se quelle transazioni non mi svolgono la funzione che io chiamo moneta, state pur certi che nascerà un'altra moneta, un mercato nero, punto. Sarà la droga, sarà i telefonini, saranno cacca di cervo, non ha importanza. Quindi, concetto fondamentale, la moneta è una funzione. Tutto ciò che svolge una determinata funzione io la chiamo moneta. Tre sono le funzioni. Primo, è intermediario negli scambi, cioè mezzo di scambio. Per comprare le merci, io adesso esco, mi prendo un caffè, posso dargli in natura ciò che loro vorrebbero da me? No! devo dargli un intermediario negli scambi. Apro il portafoglio, un euro, intermediario negli scambi. Secondo, la moneta ha la funzione di tesoro. Per motivi precauzionali, io una parte del mio reddito la tengo da parte, d'accordo? Per imprevisti. Terzo, ed è la cosa più complicata da spiegare, e questa in due minuti veramente non ce la faccio, proprio non, se Maccabelli mi aiuta, non lo so. La moneta, io ho bisogno della moneta perché ha fini speculativi. A fini speculativi, cioè io detengo una parte del mio reddito in forma monetaria perché io posso da questa moneta ottenere un rendimento. Come mezzo di transazione la moneta non mi frutta niente, ha una funzione perché mi vado a prendere il caffè, però se io la tengo in mano nel mio portafoglio, porca miseria, non si moltiplica, non c'è verso. Quindi detenerla non mi costa nulla, sempre che non ci sia inflazione, ma non mi frutta neanche un bel nulla. È chiaro? Se io la impiego non per fare gli scambi e non a fini precauzionali, posso invece ottenere un rendimento. Da che cosa dipende la quantità di moneta che io detengo a fini speculativi? Dal tasso dell'interesse, dal rendimento che io posso ottenere impiegando la moneta, parte del mio reddito che è di natura monetaria, investendolo in azioni, in buoni del tesoro, che mi danno un rendimento. Va bene? In generale, per semplificare, perché ci sono tanti tassi dell'interesse, il mondo è complicato, Gigi mi stressa in continuazione, ma comunque facciamo finta che esista un unico tasso dell'interesse, semplifichiamoci il mondo. Quindi, in questo momento io vi ho dato le tre determinanti della cosiddetta domanda di moneta, a scopo transattivo, a scopo precauzionale, a scopo speculativo. D'accordo? Analizzo il mercato della moneta in maniera semplice, domanda e offerta di moneta. La domanda di moneta da che cosa dipende? Dalle transazioni che io faccio, dalla mia propensione psicologica alla FIFA e dal tasso dell'interesse. A questo punto vedete che il tasso dell'interesse nel sistema keynesiano, che è un punto fondamentale da capire, il tasso dell'interesse è un anello di congiunzione tra la cosiddetta economia reale, gli investimenti, badate bene, è un anello di congiunzione tra l'economia reale, e si chiama reale consumi più investimento, quindi il tasso dell'interesse regola l'economia reale, investimenti, e l'economia monetaria, perché il tasso dell'interesse è il canale che mi mette in comunicazione con la domanda di moneta. Mi sono spiegato? Il mercato reale, che è fatto da consumo più investimenti, non è separato dal mercato monetario. Non sono due capitoli dell'economia separati, ma sono congiunti. E l'anello di congiunzione è il tasso dell'interesse. Ciò che accade nel mercato monetario, domanda e offerta di moneta, ha un'importanza straordinaria per ciò che accade nel mercato reale. Why? Perché? Tasso dell'interesse. Cioè, in altre parole, mi sono limitato alla domanda di moneta. Se variazioni nella domanda di moneta mi alterano il tasso dell'interesse, la variazione del tasso dell'interesse mi varia il volume degli investimenti e a catena tutto il resto. Questa è la differenza fondamentale tra la scuola di Chicago, diciamo così, e il sistema keynesiano. Va bene? Che cosa succede poi? E qua complico le cose tantissimo, ma ve le semplifico due secondi e mezzo dopo. Per adesso abbiamo analizzato la domanda di moneta. Vi domando, da che cosa dipende? Analizziamo i tre fattori. a scopo transattivo. Da che cosa dipende la quantità di moneta che io utilizzo a scopo transattivo? Dipende dal numero delle transazioni. E da che cosa dipende il numero delle transazioni? Semplificando al massimo, perché sennò Gigi mi stressa, dipende dal livello del reddito. Quindi, più io sono ricco, più guadagno, più transazioni faccio, Berlusca consuma l'ira di Dio, e ha bisogno di parecchia moneta. Quindi, la domanda di moneta a scopi transattivi è una funzione del livello del reddito. Domanda: in un momento di crisi economica, quando il reddito crolla perché c'è disoccupazione, la domanda di moneta a scopi transattivi aumenta o diminuisce? Risposta: diminuisce. Ragionamento elementare: a parità di offerta di un bene qualsiasi, offerta di moneta, se diminuisce la domanda, il tasso dell'interesse? E questi i ragionamenti che vanno fatti, d'accordo? Da che cosa dipende la quantità di moneta che io detengo a scopo precauzionale? È un fattore di natura psicologica, bene, Machiavelli, che è un tirchio, ne detiene un accumulo tremendo, io che sono uno scialacquatore come lui, zero. Però attenzione, oltre ai fattori psicologici sono anche fattori di natura ambientale. Poniamo, siamo in un periodo di crisi economica, la mia domanda di moneta a scopi precauzionali, o meglio, la quantità di reddito che io detengo a scopi precauzionali, aumenta o diminuisce? Aumenta, perché c'ho una FIFA blu. Perché? Perché se io ho perso il lavoro, la poca moneta che ho, ma la tengo. Se io prevedo che il futuro sarà ancora peggiore di oggi e magari perdo il lavoro, è chiaro che la mia domanda, e quindi la mia domanda a scopo precauzionale di moneta, tesaurizzo più moneta, una parte maggiore del mio reddito in forma monetaria. Va bene? Da che cosa dipende invece la domanda di moneta a scopo speculativo? Al tasso dell'interesse. A questo punto abbiamo analizzato le leggi della domanda della moneta. Per completare il quadro, e finisco a questo punto, e poi faccio, non so, concludiamo, anche perché c'è l'offerta di moneta. Per analizzare un mercato, il mercato della moneta, si analizzano le leggi della domanda e le leggi dell'offerta. L'offerta della moneta, chi sono? Chi offre moneta nei sistemi economici moderni? Sono due attori, la banca centrale e questa è la parte più difficile da capire, e il sistema bancario. La banca centrale ha il monopolio del conio, va bene? Cioè, se una banca stampa biglietti è fuori legge, se io stampo biglietti come faccio tutte le sere, come tanti, sono fuori legge, chiaro? Ma attenzione, le banche nell'attività di intermediario che fanno, intermediazione finanziaria, moltiplicano la moneta coniata. Com'è possibile? Questo è il processo di moltiplicazione della moneta, non ve lo spiego, ci arrivate da solo e stanotte non dormirete. Però fatto sta che accade questo, c'è un moltiplicatore monetario. Il ragionamento è semplice: Machiavelli ha bisogno di un prestito, io gli presto dei soldi, Machiavelli li deposita presso un'altra banca, poi invece di Machiavelli va lei a chiedere i soldi alla banca e la banca le dà. Questo è il sistema attraverso cui la moneta si moltiplica. Com'è non si moltiplica all'infinito? Perché esiste la banca centrale e le stesse banche che dicono che una parte dei depositi che ciascuno di noi fa deve obbligatoriamente andare a riserva, e poiché la banca centrale non si fida dei banchieri, va proprio nei forzieri, andava una volta, insomma, nei forzieri della banca centrale, che in cambio gli dà un tasso di remunerazione che si chiama tasso ufficiale di sconto. Finisco. Però dico una cosa fondamentale in questi 2-3 minuti che mi avanzano. A questo punto abbiamo scoperto che la banca centrale e il sistema bancario, variando l'offerta di moneta, possono variare il tasso dell'interesse, e tutte le variazioni che del tasso dell'interesse si riflettono sugli investimenti e quindi sulla domanda effettiva. È chiaro? In un testo che lui ha citato c'è scritto nel paragone tra le due crisi, che cosa c'è scritto? Che bada che nel 2001 la crisi è stata così, non è stata così violenta nelle sue conseguenze come quella del 1929, perché c'è stata una politica monetaria accomodante, cioè il tasso dell'interesse, la Federal Reserve l'ha abbassato. E abbassando il tasso dell'interesse ha reso meno costoso l'indebitamento per gli investimenti e gli imprenditori hanno investito. Che cosa è successo durante il 1929? È successo l'esatto contrario. Cioè la banca centrale si è comportata come i banchieri si comportano oggi. Se l'impresa è in crisi, io che faccio? Ti do più o meno? Meno. Meno. E ti strotto. 29, aumenta il tasso dell'interesse e la crisi si avvita. Che cosa dice Keynes a tutti gli economisti babbei del periodo? Dice, signori, attenzione, se siamo in periodo di crisi economica, non prima. Greenspan è stato criticato perché ha diminuito i tassi di interesse, ha favorito l'indebitamento. No, non importa, prima. Se siamo in crisi economica, vada, il tasso dell'interesse deve crollare a zero. Quanto è il tasso di interesse della Federal Reserve? 0,25. Il regalo e il denaro te lo regalano, non a noi. Alle banche lo regalano, a Unicredit l'hanno regalato, 54 volte è andato Profumo a chiedere alla Fed, mentre sui giornali dicevano no, tutto bene, gli hanno regalato il denaro. Chiaro? Quindi per fortuna la BCE che cosa sta facendo con Draghi? Il tasso di interesse lo aumenta o lo diminuisce? Diminuisce, mica è pazzo. Il problema sorge perché c'è un sistema bancario. Che fanno le banche? Si beccano i soldi e poi invece di darli agli imprenditori, no, li ridanno alla banca centrale. Li ridanno alla banca centrale! Non importa. Tutti da fucilare. Allora, attenzione, Keynes cosa dice? Primo punto di politica economica di Keynes. Ci vuole. La banca centrale non può essere indipendente. Qual è il ruolo che deve svolgere la banca centrale? L'inflazione dei prezzi. Ma va! Chi se ne frega l'inflazione dei prezzi? Regala il denaro perché qua se c'è disoccupazione bisogna stimolare gli investimenti e gli investimenti, l'imprenditore si deve indebitare a costo pressoché zero. Tutto bene allora? Siamo a posto e concludo in bellezza. Allora Keynes è un inflazionista perché si regala moneta. No? Stampo tanta moneta. Tanta moneta, Keynes è inflazionista, perché c'è una teoria che dice che il livello dei prezzi, quanto mi costa il caffè, dipende dalla quantità di moneta che è in circolazione. A parità di tutte le condizioni, se arriva più moneta, il caffè mi costa 3 euro. E da lì succedono casini, rivoluzioni. Fondamento della teoria monetarista. Fondamento della teoria monetarista. Siamo arrivati a Milton Friedman. E Keynes gli sputa in faccia a Milton Friedman, dice, ma che c'entra, che dici? Perché che cosa succede? Keynes dice, ed è il secondo argomento e chiudo, che in periodo di crisi economica sarebbe folle aumentare il tasso dell'interesse, fare un cosiddetto credit crunch, cioè diminuire la quantità di denaro che le banche danno agli imprenditori, perché la crisi si avvita. Cioè che cosa vuol dire che si avvita? Che se l'impresa prima sta per fallire, tu la fai fallire, punto, e dopo tocca a te. Cioè non ci sono speranze. Tocca a te, soprattutto se poi tu banca, come portato delle liberalizzazioni, prima era vietato che le banche investissero i vostri risparmi nelle azioni delle imprese, adesso con la liberalizzazione i risparmi e il capitale delle banche sono investiti nelle imprese, quindi se fallisce l'impresa, fallisce anche la banca. Questo è il concetto fondamentale, no? La liberalizzazione ha favorito la rinascita della banca industriale, cioè la banca commerciale che raccoglie risparmi e li dirotta verso investimenti di lungo periodo. Fallisce la Fiat, fallisce la banca e siamo tutti. Però dice Keynes, attenzione, quindi non bisogna fare questa politica, ma arriva un certo punto in cui, e qua chiudo, e tutto si tiene, ed è veramente una goduria questa del, diciamo così, di questa riflessione di Keynes. In un paese ricco dove c'è una grande quantità di risparmio, dove c'è una grande quantità di investimenti e le attese di profitto sono bassissime, anche se io abbasso il tasso dell'interesse fino allo zero o comunque fino al tasso ritenuto minimo, allo zero, gli investimenti comunque non ripartono. Quindi la politica monetaria in periodi di crisi economica è impotente. Qual è la soluzione? Come si esce dalla crisi? Qui. Attenzione, se alzassimo i tassi siamo dei delinquenti. Devi dare, ma arrivi a un certo punto in cui, dato la tecnologia, dato le attese di profitto, dato il volume degli investimenti, le attese di profitto sono talmente basse che, qual è la soluzione? Le soluzioni sono due. Gli investimenti chi li fa se non li fanno i privati? Lo Stato. Punto. Punto primo. Quindi bisogna socializzare una parte notevole degli investimenti. Perché? Non perché Keynes è un bolscevico, ma perché gli imprenditori non lo fanno. Ciò che regola l'investimento pubblico non sono le attese di profitto. È chiaro che poi ci sono delle ricadute, perché, vabbè, ma questo le complicherebbe. Secondo, qual è l'altro strumento che ho a disposizione? Keynes è favorevole ad aumentare prima il volume degli investimenti, perché secondo Keynes negli anni 30 non c'erano abbastanza asili, non c'erano abbastanza porti, non c'erano abbastanza ferrovie. Cioè bisognava fare tutta una serie di investimenti che al tempo stesso rimettevano in moto l'economia, e per produrre una scuola io devo aumentare l'occupazione. L'occupazione crea reddito, il reddito crea consumi. Fatto questo blocco, per Keynes la soluzione successiva è la redistribuzione della ricchezza. Redistribuisco ricchezza e incentivo i consumi. Come si fa a redistribuire ricchezza? Attraverso, ovviamente, ancora una volta, la mano pubblica. Basta, io vi ho, mi sa che vi ho preso troppo tempo. Questo, diciamo così, in sintesi è il sistema keynesiano, che voi trovate descritto in maniera, secondo me, eccellente nel testo che vi ho indicato. Il testo che vi ho indicato ve l'ho spiegato quasi tutto, manca un altro concetto che troverete per conto vostro, che è il concetto del moltiplicatore. Concetto di moltiplicatore, che è una formula matematica che nessuno capisce sotto forma di formula matematica perché è incomprensibile. Il concetto di moltiplicatore vuol dire semplicemente questo: che se io faccio un investimento, io Stato, e quindi veniamo, faccio un investimento e costruisco una scuola e spendo 1.000 miliardi, quanto sarà l'aumento del reddito che avrò? Sarà di quei 1.000 miliardi che io ho utilizzato per costruire la scuola? No, sarà di quello più una percentuale maggiore, perché gli operai che io, a cui ho dato 1.000 miliardi per costruire la scuola, che faranno? Consumeranno secondo i loro gusti. Uno andrà al mare, uno si compra la bicicletta, uno prende una macchina, le macchine vanno prodotte e quindi producendo altre macchine si pagano altri operai, and so on. Questo è il concetto moderno. Questo è il sistema keynesiano. Il sistema keynesiano che oggi, diciamo così, è tornato, dovrebbe essere tornato di moda, sono, diciamo così, è l'ABC fondamentale dell'economia, che è andata per 20 anni, dagli anni dal 1945 fino al 1973, fino al 1980, e poi, come ci ha mostrato Machiavelli, sono iniziati i disastri.